Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora l'ultima puntata della settimana e allora vediamo subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Spread, borse in primo luogo, ma non solo, anche un po' di incertezza, per dirla in maniera leggera, sulle elezioni francesi. E poi il lancio in Italia, la prima dimostrazione per la stampa oggi del treno Italo, NTV Italia, quindi la concorrenza all'alta velocità delle Ferrovie dello Stato, oggi una dimostrazione sulla tratta Napoli-Roma, Roma-Napoli-Napoli-Roma, continueranno lungo tutti i prossimi giorni per poi arrivare al 28 con il debutto ufficiale per i passeggeri dei nuovi treni, che avranno delle caratteristiche, oltre che tecniche di servizio, anche proprio come operatività un po' diverse rispetto a quelle del Freccia Rossa, e ne parleremo con l'amministratore delegato di NTV Italia. Nella seconda ora del programma, come già fatto ieri, cercheremo di dare risposta e quindi di dare le testimonianze, alcune delle testimonianze che ci stanno arrivando per l'iniziativa Disperati Mai, che Radio 24, poi nei programmi del sottoscritto e di Oscar Giannino, sta cercando di seguire. L'iniziativa, voglio chiarirlo a tutti, non si proponeva l'obiettivo di dare delle risposte. Non abbiamo né consulenti psicologi, né abbiamo consulenti che possono darvi delle risposte. Si proponeva l'obiettivo, e mi sembra che ci stiamo riuscendo, di dare voce, quello lo possiamo fare, siamo una radio, di dare voce a chi era disperato, quindi di non far sentire soli, perlomeno da un punto di vista della comunicazione, migliaia di imprenditori, e a giudicare dalle mail che stiamo ricevendo, non solo il piccolo imprenditore classico, quelli sicuramente, ma anche molte partite IVA, moltissimi professionisti che si ritrovano in una situazione molto analoga. Ecco, il nostro obiettivo è quello di dare voce, obiettivo che verrà perseguito lungo tutta anche la prossima settimana. Poi avremo anche un modo per fare il punto in una giornata speciale, per poi ripartire e continuare a rispondere a livello emblematico, cioè prendiamo alcune lettere che a nostro avviso ne rappresentano tante altre. Quando arrivano centinaia di mail in un giorno all'indirizzo disperatimai@radio24.it, capite anche voi che non riusciamo e non potremo mai riuscire a rispondere a tutte. E devo dire che comunque il flusso di mail è impressionante e forse anche superiore, questa non è necessariamente una bella notizia, superiore alle nostre attese. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, la borsa e lo spread, nonostante uno spread ancora in tensione, quindi la differenza tra quanto costa a noi indebitarci e quanto costa la Germania è tornata oggi a essere superiore ai 400 punti, è poi risceso a 3,90, è un livello sempre molto alto, è un livello comunque che un paese non può reggere a lungo, cioè pagare il debito, trovare compratori per il tuo debito dovendo offrire 4 punti percentuali di rendimento in più rispetto alla Germania, è un livello nel medio termine non sostenibile. È tornato intorno a metà giornata sotto i 400 punti, tra Francia e Germania è salito a 150 punti, sfiorando qui quindi il record del 9 gennaio scorso, poi è sceso a 140 punti con la Spagna, è a 422. L'Unione Europea ha detto che resta fiduciosa sulla capacità dell'Italia di far fronte alla crisi e non ritiene utile commentare i movimenti speculativi dei mercati nel breve termine. Domani di questo si occuperà con una lunga inchiesta anche il Sole 24 Ore su, diciamo, le nuove tensioni che si stanno scaricando sullo spread italiano, ma non solo. E il Portogallo, sempre in tema di debiti sovrani dell'area euro, il Portogallo potrebbe chiedere, secondo Morgan Stanley, banca d'affari americana importantissima, potrebbe chiedere un secondo salvataggio entro settembre. Morgan Stanley infatti prevede una recessione più profonda del previsto e un secondo salvataggio entro settembre, mentre dice Morgan Stanley c'è il rischio di un deragliamento, e voglio dire, deragliamento sul Portogallo non è una cosa leggera, perché il Portogallo pesa ancora di più della Grecia, quindi non stiamo parlando di un'ipotesi di accademia. Il report di Morgan Stanley però dice: attenzione, c'è il rischio di un deragliamento nel medio termine che può minare la determinazione dell'Europa a evitare un'altra ristrutturazione del debito. Un gufo scaramantico sul deragliamento del Portogallo, e poi partiamo con le notizie in breve. Altro sempre in tema di debiti sovrani dell'Europa, in questo caso però stiamo parlando delle banche greche, le quattro maggiori banche commerciali della Grecia: Banca del Pireo, Alpha Bank, Eurobank e Ethniki Trapezza, che è la banca nazionale, hanno pubblicato dei bilanci in cui hanno anche esposto quanto hanno perso con la ristrutturazione del debito greco, cioè il taglio del 45% del valore nominale dei titoli di Stato greci. Ebbene, le perdite complessivamente arriveranno in queste quattro banche a 20 miliardi di euro. Dicevamo però della borsa. La borsa è positiva e lo è a Milano ancor più che a Parigi: più 0,80% Milano, più 0,30% Parigi, più 1% Francoforte, più 0,40% Londra. Molto bene gli energetici: A2A più 6,90%, Enel più 3,40%, Eni più 2%, bene anche di Assorin più 2,70%, Telecom Italia più 2,20%, Popolare Emilia Romagna più 2%, Parmalat più 1,80%, Banco Popolare più 1,30%. Male invece Finmeccanica meno 2,70, Fiat meno 2, ST Microelectronics meno 1,60, Fiat Industria meno 1,20, come Tenaris, Tods meno 1%. Eni e Enel beneficiano anche dell'accordo raggiunto e annunciato oggi per la prima volta nella loro storia, per cui le due partecipate dello Stato, appunto Eni ed Enel, hanno avviato una produzione assieme, congiunta, di gas in Siberia. Enel non aveva mai prodotto prima direttamente gas. E poi il Fondo Monetario Internazionale, il gruppo dei paesi cosiddetti G20, destinerà praticamente al Fondo Monetario Internazionale oltre 400 miliardi di dollari in ulteriori risorse. Sarebbe questo il termine dell'accordo raggiunto oggi a Washington. Il segretario generale dell'OCSE, Gurria, ha detto che i mercati, quanto a spread, si attendono soprattutto le decisioni dei G20. Ha detto Gurria, addirittura, attendono le decisioni che prenderemo noi qui da Washington. Ancora al di là delle vicende europee, in Italia oggi il ministro Catania ha escluso, ha detto non c'è nessun argomento che ci permette di dire oggi che l'anno prossimo non sarà necessaria un'imposta come l'IMU sulla prima casa. Ieri il segretario del PDL Alfano aveva ipotizzato un IMU solo quest'anno, una tantum IMU sulla prima casa. E poi nella norma del Salva Italia sul divieto di cumuli di incarichi, vi sarebbero maglie strette per questo divieto di cumulare incarichi nel mondo della finanza. Banca Italia, Consob e ISVAP, hanno già varato i criteri per valutare la sussistenza di cariche incrociate. La soglia dei soggetti è stata posta nella fascia bassa, cioè 47 milioni di euro, sopra i 47 milioni di euro inizi ad avere divieti di cumulo di incarichi, 47 milioni di euro come valore della società. E poi, mentre i giovani di Confindustria parlano di rabbia e sconforto, di fallimento e licenziamenti e di una situazione del paese insostenibile, anche per la mancanza di provvedimenti coraggiosi, servono subito misure effettive per non essere costretti al fallimento e mandare a casa i lavoratori, il segretario della CGIL, Susanna Camusso, ha detto che di giorno in giorno il nostro giudizio su questo governo peggiora, perché non ha dato risposte al lavoro, anzi si è accanito sui lavoratori. Non vi è equità in questi interventi fatti fino adesso, la situazione sociale sta diventando insopportabile e ha aggiunto: il paese ha bisogno di risposte concrete sul mondo del lavoro. E vorremmo innanzitutto dire al governo che questo paese c'ha un bisogno, e il bisogno che ha è quello del lavoro, che si comincino a dare risposte concrete a tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che temono per il loro posto di lavoro, a tutti quelli che sanno che si potrebbe ricominciare a costruire lavoro attraverso le bonifiche piuttosto che gli investimenti, dare lavoro a tutti quei giovani a cui hanno promesso che sarebbero intervenuti contro la precarietà, che gli avrebbero dato una pensione. Giovani del nostro paese che da mesi vengono strumentalizzati da questo governo. Però poi nei sindacati c'è un po' di confusione, perché Susanna Camusso ha detto: continuiamo a lavorare per preparare lo sciopero generale che faremo, però il segretario della CIS, Bonanni, ha detto: sciopero generale impossibile, uno al giorno. Nel frattempo, come anche ricordavamo in apertura del programma per via delle notizie di carattere internazionale, oggi tensioni anche sullo spread francese, è arrivato a 150 punti, legate, a mio avviso anche e soprattutto, alle attese sul voto. Dopodomani, infatti, domenica, primo turno delle elezioni presidenziali francesi, il ballottaggio si svolgerà il prossimo 6 maggio, a sfidarsi, come molti di voi sanno, il presidente uscente Nicolas Sarkozy e lo sfidante socialista François Hollande. Sondaggi che danno lo sfidante vincente al secondo turno, 56% contro 44%. Ci colleghiamo col corrispondente dalla Francia del Sole 24 Ore, Marco Mussanè, buonasera. Buonasera a voi. Dal punto di vista del profilo economico, si è molto detto, a mio avviso in maniera anche un po' grossiera, visto che parliamo di Francia, un po' semplicistica, grossolana, che Hollande era un anti-europeista, mentre Sarkozy avrebbe mantenuto la linea filo-tedesca e quindi, diciamo, dell'asse franco-tedesco. Mi sembra di poter dire che negli ultimi giorni però si sono un po' spaiate queste posizioni così un po', appunto, semplificate e anche semplicistiche. Ma intanto secondo me è un errore quello di ritenere che Hollande sia un anti-europeista. Hollande è un esponente della sinistra e quindi è del tutto evidente che ponga l'accento più sugli aspetti di crescita, di occupazione, che non sugli aspetti di una rigorosa disciplina di bilancio. Ciò detto, il programma di Hollande prevede comunque, come quello di Sarkozy, un deficit al 3% del PIL nel 2013, l'anno prossimo, e il pareggio di bilancio, sia pure con un anno più tardi rispetto a Sarkozy, comunque nel 2017, quindi l'obiettivo del risanamento di bilancio esiste. Dopodiché è vero che Sarkozy negli ultimi giorni, ovviamente sulla scorta dei sondaggi molto negativi, dell'esigenza quindi cercare di raccogliere voti anche in un elettorato popolare in cui prevale il malcontento, il timore, la paura per il futuro, ha sottolineato che, violando peraltro un patto stilato a suo tempo con la cancelliera tedesca Merkel, che la BCE potrebbe fare di più per sostenere la crescita, e forse accantonare per un momento l'obiettivo prioritario del controllo dei prezzi per dedicarsi di più alla difesa della crescita e dell'occupazione. Hai ragione, Marco, nel dire che Hollande non è anti-europeista, è contro questo modello di gestione dell'euro, se vogliamo essere più precisi, cioè il modello sostanzialmente tedesco. La Banca Centrale Europea deve occuparsi solo dell'inflazione, non deve stampare moneta, non può garantire in ultima istanza le banche dell'area euro, e l'unica ricetta per uscire dalla crisi sono tagli, tasse e controllo della spesa pubblica. Alcune di queste cose sono giuste, sapete lo scetticismo di chi conduce questo programma nel fatto che si possa uscire dalla crisi solo con queste cose, non anche con queste cose. È vero che vuole mettere però la maxi tassa sui ricchi sopra il milione di euro? Sì, questa è una concessione direi quasi inevitabile in campagna elettorale dell'elettorato di sinistra. Non dimentichiamo che il Front de Gauche, cioè l'ala, il movimento a sinistra del Partito Socialista guidato per esempio come Mélenchon, è accreditato di un 14-15% dei sondaggi, quindi questi voti saranno essenziali per Hollande in vista del secondo turno, quindi è chiaro che doveva strizzare l'occhio a quella fascia di elettorato e quindi ha lanciato questa proposta di una supertassa del 75% sulla quota di reddito superiore al milione di euro. Ecco, la domanda che ho per te... Sì, già ricorderemo che ci fu chi, Arnaud, se non ricordo male, scappò dalla Francia addirittura quando venne eletto Mitterrand, no? negli anni 80, ma perché riteneva che insomma avrebbero nazionalizzato tutto. Così non fu, ma torniamo al presente. Questo è il programma economico di Hollande per sommi capi, rivedere l'asse con Angela Merkel, rimettere in discussione tutto il progetto anche di tagli, di riduzione del deficit a costo di tagliare, di aumentare le tasse e tagliare le risorse e pensare di più a occupazione e crescita economica. Sarkozy ha confermato insomma invece l'asse con Angela Merkel, taglio della spesa pubblica di 40 miliardi, aumento dell'età pensionabile da 60 a 62 anni e riduzione della minimum tax sulle aziende, innalzamento dell'IVA. Sembra un po' la manovra Monti, se posso osare, ma Sarkozy sta pagando più il suo essersi schierato in maniera secondo alcuni troppo da zerbino con la posizione di Angela Merkel, o sta banalmente pagando come altri leader la crisi economica? Qualunque cosa avesse fatto nulla sarebbe cambiato. No, secondo me Sarkozy sta pagando in parte il fatto che ovviamente l'andamento della disoccupazione, l'andamento dell'economia creano nel paese un naturale reazione di rigetto per la classe dirigente in carica, e dall'altro secondo me sta pagando fortemente, più di quanto si possa essere percepito all'estero, gli aspetti più banalmente comportamentali. Sarkozy non è mai riuscito in questi anni a entrare davvero in sintonia con il paese, è un presidente nei confronti del quale una gran parte del paese prova diffidenza, se non addirittura repulsione. È un personaggio non facile, non però se lo sono votato 4 anni fa. Sì, se lo sono votato 4 anni fa certamente, poi hanno visto i comportamenti di questi 5 anni, hanno memorizzato, molti francesi hanno ancora nella testa la famosa cena con gli amici ricchi al Fouquet's sui Champs-Élysées la sera della vittoria, hanno ancora in mente la vacanza sul yacht di Bolloré quando aveva detto che sarebbe andato a concentrarsi in monastero, hanno in mente le battute feroci nei confronti di chiunque esprima un'opinione diversa. È un personaggio abbastanza intollerante, è chiaro che questo non lo ha aiutato nel momento in cui deve ripresentarsi al voto dei francesi. Quindi tu dici sì, la crisi, ma soprattutto alcuni atteggiamenti comportamentali, caratteriali, insomma, sì. non tanto e non solo l'alleanza con la Germania netta, cioè si è appiattito sulle posizioni tedesche. No, direi di no, anche se certo tutto questo poi conta, è chiaro che agli occhi dei francesi che non amano i tedeschi, il fatto di avere in continuazione, sentir ribadire in continuazione il riferimento al modello tedesco e l'idea quindi che la Francia debba allinearsi sulle posizioni prese da Berlino, certo è una cosa che ai francesi non piace. Grazie a Marco Mussanè, vedremo come andrà il primo turno delle elezioni francesi. Grazie al corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Sì, sappiamo tutti che in Italia si va in pensione a 67 anni, ho solo detto una manovra tipo quella di Monti perché è tutta giocata su aumento dell'IVA, aumento della pressione fiscale, aumento dell'età pensionabile, taglio alla spesa pubblica, oddio qua di taglio alla spesa pubblica pochi se ne sono visti, meteo, pubblicità e poi il lancio in Italia con treni francesi, quindi volo un po' pindarico. Del nuovo concorrente delle Ferrovie dello Stato, o meglio del Freccia Rossa, NTV Italia, 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa chiusa in rialzo dello 0,86%, anche di quello parleremo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla borsa, più 0,80%, dicevamo Milano. Ci occupiamo del viaggio inaugurale di oggi, il debutto inaugurale, quello ufficiale arriverà il 28 e quello effettivo il 28 aprile, di Italo, ossia il treno ad alta velocità di NTV che andrà a fare concorrenza alle Ferrovie dello Stato, 25 treni, collegherà 9 città e quindi farà Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, ma anche Venezia, su questo i prezzi andranno dai 45 a 130 euro sulla Roma-Milano, sulla Napoli-Roma da 20 a 70 euro. Intanto sentiamo le dichiarazioni sugli obiettivi del presidente di NTV Italia, Luca Cordero Montezemolo. Abbiamo 1000 giovani che abbiamo assunto, 1000, l'età media è sotto i 30 anni, la metà di questo sono donne e quindi è un bel segnale nella fiducia del paese e dimostrare che l'Italia c'è sempre. Questi sono segnali veri, si parla tanto di crescita, questa è la vera crescita di chi crede nel paese, chi investe e chi rischia. Questo è il treno sicuramente in Europa con il più basso impatto ecologico, di consumi e di ambiente. È il treno più moderno in questo senso. Quando dobbiamo aspettarci il primo treno Italo oltre confine? Se si apre la concorrenza di più in Italia, anche sulle tratte regionali, perché non si può avere la concorrenza solo sull'alta velocità, spero presto. Allora parliamo della parte operativa, quanto costerà, come funzionerà, come faranno a fare concorrenza. Noi siamo sempre a favore della concorrenza. La settimana scorsa il nostro ospite Mauro Moretti, numero uno delle Ferrovie Italiane, e oggi invece è la volta dell'amministratore delegato di NTV appunto Italia, Giuseppe Sciarrone. Buonasera. Buonasera. Allora Sciarrone, dicevamo obiettivo 20-25% del mercato entro 2014, volete riempire i treni intorno al 30% in un mese, il tasso di riempimento si chiama, per arrivare al 60% entro un anno. Tra l'altro lo dico a chi scrive, non esistono delle le motrici su questi treni, sostanzialmente ogni vagone ci sono 10 carrelli che sono delle motrici, che sono non esiste più la locomotiva, questo è un po' il funzionamento della 4x4 per farvi capire, quindi la possiamo chiamare 10x10, in modo che c'è maggiore aderenza nel treno, che può toccare i 3,60 ma andrà come in Freccia Rossa ai 2,90 300 km all'ora. I prezzi? Ma dunque, allora se noi prendiamo il nostro treno, tutti i nostri servizi e da Roma a Milano dare la possibilità di viaggiare anche a 45 euro, a me sembra un prezzo che più basso di così è impossibile. noi siamo ai livelli di qualità massimi in Europa. Non dovrei essere a dirlo, saranno i viaggiatori, ma pensiamo anche un po' di più di livelli di qualità. Cioè, che cosa offrite? E abbiamo i prezzi decisamente più bassi. Meglio di così penso che non si possa fare. Però quelli e aggiungo, 45... e aggiungo. Se mi consente, che questa regola dell'alta qualità e dei prezzi più bassi vale non soltanto per noi, ma vale anche per Trenitalia. Credo che gli italiani possano essere contenti di vedersi offrire servizi così validi con questa gamma di prezzi così ampia. Quindi lei sta dicendo che comunque il servizio offerto da Trenitalia è un buon servizio? Assolutamente sì. Ok, una cosa volevo sapere però, che cosa offrirete voi in più? Insomma, qui stiamo parlando della prima forma di concorrenza vera, perché Arena Ways non è andata bene, loro accusano l'FS, Moretti ha detto che la colpa non è loro, ma insomma la prima concorrenza vera su un settore ad alto valore aggiunto, perché voi fate concorrenza all'FS, a Trenitalia, ma anche ad Alitalia Air One, perché la tratta Roma-Milano è quella più profittevole, oserei dire anche la Milano-Napoli, però insomma sulla Roma-Milano soprattutto. Questa concorrenza come si esplica poi? Cosa offrite? Il prezzo l'abbiamo capito, lei ci conferma che i biglietti a 45 euro esisteranno, non saranno specchietti per le allodole come fa l'Italia ogni tanto anche? Un posto su tre sarà venduto o in economy, e la nostra economy o la nostra low cost. Basta andare sul nostro sito italotreno.it per vedere in maniera assolutamente chiara e trasparente quali sono le offerte di prezzo sui singoli treni. Allora, prego. Se poi lei mi chiede che cosa offriamo di più... Allora, sì, come si sviluppa la concorrenza, questo ci interessa. La concorrenza si sviluppa innanzitutto noi presentiamo un treno che è il più moderno d'Europa, che è un treno di grande comfort, silenzioso, luminoso, con basso rumore interno ma anche esterno, con un sistema di distribuzione dell'aria condizionata dentro innovativo che non crea flussi di aria forzate verso i viaggiatori, quindi un treno bello, modernissimo e confortevole. Su questo treno poi offriamo una serie di novità che sono uniche, una in particolare unica al mondo, siamo la prima compagnia ferroviaria ad offrire la possibilità di vedere in diretta la televisione satellitare. Cioè Sky? Esattamente, abbiamo fatto un accordo con Sky e quindi noi cominciamo a dare gratuitamente ai viaggiatori sul proprio computer la possibilità di vedere Sky TG24 e man mano col tempo amplieremo la gamma delle... Ma quindi li vedo sul computer di bordo, cioè quello della sedia? Sul proprio computer, o sul mio computer? A meno che non si viaggi nell'ambiente club, l'ambiente club 19 posti sono quelli dove i prezzi sono i più alti di tutti. 19 posti attrezzati con schermi al posto, in club si potrà vedere la TV questi 19 schermi, sul resto del treno sia in prima che in smart gratuitamente sul proprio computer si potrà vedere la televisione. Il treno sarà tutto wifi, immagino? Tutto wifi gratuito naturalmente, in più c'è una carrozza che è dedicata al cinema, abbiamo fatto un accordo con una casa di produzione per cui abbiamo una biblioteca di 150 dei più bei film del passato e ogni mese si vedrà... Cioè io vado lì, mi siedo e guardo un film, no mi interessa, sono curioso. Esattamente, si guarda un film senza nessun aggravamento di prezzo, anche qui il cibo, per notare la carrozza giusta, il cibo è completamente nuovo, innovativo, abbiamo chiesto 2 anni fa al modernizzatore della ristorazione che è Italy, Oscar Farinetti, abbiamo chiesto a Farinetti di studiare per noi, per il nostro treno, un nuovo modo di fare ristorazione al posto. Lo ha studiato e lo proponiamo da sabato al mercato. Crediamo che sia una novità che avrà un successo anche su altri modi di trasporto notevoli, perché al momento ci dicono tutti che è davvero accattivante. Mi dica un'ultima cosa, dottor Sciarrone, ma il vostro obiettivo è rubare posti più a Moretti o più ad Alitalia? Ma il nostro motivo è, il nostro obiettivo è servire il meglio possibile il mercato. Se devo dire, senza parlare di Alitalia o di Moretti, senza personalizzare, noi abbiamo un modello di servizio che privilegia i collegamenti fra le città, Roma con Napoli, Roma con Firenze, Firenze con Bologna e Milano, Milano con Torino, Torino con Bologna, dove non c'è competizione con gli aerei. Aereo. Il servizio Roma-Milano, la competizione con l'aereo si ha soltanto sui treni diretti, cosiddetti non-stop. Su questo modello, su questa concorrenza, Trenitalia ha investito molto, noi ci puntiamo meno, avremo soltanto tre non stop al giorno per i clienti che saranno affezionati ad Italo. Beh, quindi chiara la strategia anche di competizione, voi non andate a fare concorrenza tanto sulla tratta non stop, quella lunga, ma sugli spostamenti città-città, un po' potremmo dire commuting. È chiaro quindi però che se fate meno concorrenza su Milano-Roma e più concorrenza su tutte le città, Napoli-Roma, Roma-Firenze, Firenze-Bologna, Bologna-Milano, la concorrenza più forte la farete al Frecciarossa più che all'Italia. È esattamente così, ma noi pensiamo che non andiamo a togliere traffico a nessuno, noi pensiamo che la concorrenza fa crescere il mercato, genera nuovi spostamenti, nuova mobilità, avvicina le città di più, ancora di più, serve meglio la popolazione italiana e quindi c'è spazio per tutti. In bocca al lupo, come sempre facciamo a tutte le nuove iniziative, a maggior ragione se portano maggiore concorrenza, con benefici, come ci immaginiamo, perché mica farete il cartello come le assicurazioni o altre cose, no, niente cartelli, concorrenza no, vera, Sciarroni, mi raccomando. Vera e quindi, lupo. E crepi lupo. Bene, grazie quindi all'amministratore delegato del gruppo NTV Italia, Giuseppe Sciarrone. Arrivederci, grazie. Adesso andiamo col traffico, vedo molti messaggi, alcuni di incuriositi. Beh, lui, Sciarrone, ha detto che un biglietto su tre di quelli a low cost, 45 euro, che ogni tre biglietti uno sarà in versione low cost. Staremo a vedere. Adesso, è ovvio che il numero uno di NTV Italia dice che i suoi treni sono belli. La settimana scorsa abbiamo avuto Moretti, non è che ha detto una cosa diversa rispetto, che abbia detto una cosa diversa rispetto al Frecciarossa. Quindi dicono: oh, avete fatto un favore a NTV. Sì, abbiamo fatto un favore questa settimana a NTV, la settimana scorsa a Frecciarossa, quindi siamo a posto perché due sono i concorrenti, tutti e due li abbiamo avuti. E adesso il traffico e poi parliamo della borsa, di Fondiaria Sai e arriviamo anche a Disperati Mai, l'iniziativa per dar voce agli imprenditori di qualunque genere e tipologia in difficoltà. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, adesso la borsa, una risposta rapidissima sul treno che dal 28 aprile farà concorrenza a Frecciarossa. Allora, ho detto nove città perché mi ero dimenticato, e avete ragione, Padova e Salerno. A chi chiede se farà fermata nelle stazioni intermedie principali, da quello che ci ha appena raccontato Sciarrone, cioè il numero uno di NTV Italia, è proprio questa la loro strategia, cioè far concorrenza non sul diretto, chiamiamolo così, Milano-Roma, o Milano-Napoli, ma su tutti quelli che utilizzano le stazioni intermedie, quindi Bologna-Milano, Bologna-Firenze, Firenze-Roma, Roma-Napoli, Napoli-Salerno, Bologna-Venezia e Bologna-Padova e Venezia, per cui sulla tratte intermedie. Detto ciò, a borsa. Il tema di oggi in borsa è sicuramente il gruppo Fondiaria Sai, dopo quello che è successo ieri. Premafin perde ha perso il 10%, Fondiaria Sai l'8,70%, Unipol il 7,30%. Lo lasciamo per ultimo perché abbiamo un approfondimento apposito. Invece con Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Più 0,80% Milano, insomma, rincuorate anche dal Fondo Monetario le borse. Molto bene oggi gli energetici, ma in particolar modo A2A più 8,60%. Devo citare però anche Enel più 3,40%. Eni più 1,70% ed Enel Green Power più 1,40% anch'essa. Sì, partita, come dicevi tu, la storia principale è proprio fondi avversari, al di là di quella non ci sono grandi storie societarie. Oggi i mercati sono stati rincuorati sia dai dati macroeconomici provenienti dalla Germania che appunto dal possibile sblocco dei fondi del G20 per il Fondo Monetario Internazionale, e quindi oggi a Piazza Affari hanno guadagnato soprattutto quei titoli che più avevano sofferto di recente. A2A era stata nelle ultime settimane assolutamente tra i peggiori a causa dell'incertezza sul business, sulla strategia di business futura e sul dossier Edison e di Power. Oggi ha recuperato tantissimo, è salita dell'8,6%, ma appunto ricordiamo che viaggiava sui minimi storici ormai da settimane. Il discorso analogo per l'Enel, che era in trend negativo ormai da un po' di tempo, oggi è tra i migliori con un più 3,4%, mentre per Diasorin è un po' in altalena da qualche settimana, oggi appunto ha guadagnato il 2,75%. Ma lo stesso discorso si può fare anche per alcune banche di media dimensione, che nell'ultimo mese avevano perso oltre il 30% e oggi sono state tra i migliori, come la Popolare dell'Emilia Romagna, il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Ancora sì, già citavi le banche, le hai già fatte tu, fammene dare Popolare Emilia Romagna più 2,17%, Banco Popolare più 1,50%, Generali più 1%, Ubibanca più 0,80%, in negativo invece Finmeccanica meno 2,70%, Fiat meno 2%, immatricolazione in Europa e i dati dal Brasile sul mese di aprile che sono in discesa, Estima Electronics meno 1,60%, Fiat Industria meno 1,40%, Tenaris meno 1,30%, Monte dei Paschi meno 1,12%. Grazie, buon fine settimana ai colleghi di Radio Colle sulle 24 ore, ma noi restiamo in tema di borsa, perché accanto a me Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Fabio, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. La vicenda chiaramente fondiaria assai. Allora, poi arriviamo al rapporto con le banche, che mi interessa. Però, ieri la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Salvatore Ligresti, con l'accusa di agiotaggio. E poi la Guardia di Finanza ha sequestrato il 20% delle azioni della Premafin, che è la holding, cioè la società che controlla fondiaria assai e Milano Assicurazioni. Riconducibili a due trust con sede alle Bahamas, gestiti da Giancarlo De Filippo, fiduciario di Ligresti, a sua volta indagato con la stessa accusa. Qual è l'ipotesi dei PM e perché si collega con l'agiotaggio, cioè questo sequestro con l'accusa di agiotaggio? Ma la manovra degli inquirenti sta un po' dividendo le sorti della compagnia, cioè da un lato la salvezza finanziaria e industriale di Fondiaria Assai, dall'altro la responsabilità della famiglia. Questo è molto chiaro, perché i PM stanno agendo a monte della catena. Cioè Orsi, il PM, ha chiesto prima il fallimento di Sinergia e Imco, che sono le due holding non quotate della famiglia, quindi sopra Premafin, perché asserisce che c'è un deficit patrimoniale di 100 milioni, cioè debito e attivo c'è una differenza di 100 milioni e quindi sarebbero tecnicamente fallite. La seconda cosa è che i PM più volte, e la Consul aveva già rivelato oltre qualche mese fa, hanno sequestrato quel 20% che i Ligresti hanno sempre detto di non possedere direttamente. Loro hanno sempre asserito, il comunicato è dell'altro ieri, che la loro quota era il 50,1%. In realtà c'è un 20% caraibico che sia Consul e ora la magistratura asseriscono a fluire direttamente alla compagnia. A cosa serviva questa cosa qui? Evidentemente a controllare meglio l'azionariato di Premafin, e non stupisce che il sequestro sia legato al reato di agiotaggio. Cioè cosa succedeva? Che i Ligresti di fatto movimentavano loro il titolo Premafin. E d'altra parte basta vedere un grafico di borsa. Se uno mette a confronto Fonsai e Premafin, nota che Premafin, che sta in cima e quindi subisce tutti i contraccolpi di Fonsai, sta sempre sopra le quotazioni di borsa di Fondiaria Assai, costantemente. Allora, ne parliamo dopo il GR, perché questi soldi, secondo l'accusa del PM, vengono utilizzati dalla famiglia Ligresti per fare agiotaggio in borsa. Il GR, poi torniamo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Fabio Pavesi, sulla vicenda Fondiaria Assai, oggi malissimo i titoli in borsa, ripeto, meno 10% Premafin finanziaria che controlla il gruppo di Ligresti, Fondiaria Assai meno 8,75% e anche la acquirente o acquirenda, non so se posso dire, meno 7,30%, e mi riferisco a Unipol. Tu spiegavi come i PM che indagano sostengono che intanto un 20% di azioni di Premafin che stavano alle Bahamas fossero riconducibili alla famiglia Ligresti e quindi Giancarlo De Filippo fosse solo un prestanome, mentre i Ligresti hanno sempre smentito, ma soprattutto che attraverso questo 20% alle Bahamas i Ligresti compivano operazioni di agiotaggio, cioè muovevano il titolo a loro piacimento, a loro interesse, per tenere sempre alto il valore. Perché questo però? Ma la motivazione è molto semplice: tu dovevi tenere alto il valore di Premafin perché sotto una certa soglia tu avresti dovuto o rimborsare il debito alle banche, ricordiamo che Ligresti ha lavorato sempre con forte debito, o dare ulteriori azioni impegno alle banche, perché Premafin aveva azioni impegno alle banche e doveva rispettare certi parametri borsistici. C'è un paradosso: la capitalizzazione di mercato oggi di Premafin è di 112 milioni di euro quando il patrimonio netto è negativo per 32. Qual è questa in borsa che vale quando il patrimonio non c'è, azzerato? È un controsenso logico. Questo evidentemente era funzionale a una strategia che era solo nell'interesse della famiglia e su cui Consob e IPM hanno dimostrato che in 217 giornate su 223 di borsa nel 2010 il 22% del totale delle azioni era acquistato dalle società caimanesi, dalle società offshore. Cioè gli unici che compravano erano i Ligresti. Esattamente, cioè era un titolo fittizio, diciamolo così, cioè sì. Nel senso che in realtà i veri compratori e venditori non era il mercato, era più o meno direttamente la famiglia Ligresti. E questa cosa qui serviva appunto a uno scopo ben preciso. A muovere il titolo a loro interesse, in modo da non dover spiegare alle banche e quindi fare anche un aumento eventualmente, esatto, di capitale. Esatto, chiedere nuovo debito alle banche. ultima domanda. Visto che parliamo adesso di imprenditori a cui sì. le banche concedono nulla, sì, anzi, sì. il rapporto con le banche. Fermo restando che molti ci chiedono: ma dov'era la Consob di Cardia e l'ISVAP di Giannini in questi anni? E io immagino che non c'entri nulla che il figlio di Cardia, dell'ex presidente della Consob, Marco Cardia, viva nell'appartamento ai Parioli di proprietà dei Ligresti, né c'entri nulla il fatto che Andrea Giannini, figlio del presidente dell'ISVAP, che è l'autorità di controllo sul mondo assicurativo, abbia lavorato in fondiera SAI tra 2005 e 2006. Al massimo è un problema di opportunità, di buon gusto, diciamo, no? Non possiamo ipotizzare altro. Ma le banche quanto sono esposte? Guarda, ti do un dato che è uscito in tempi non sospetti. Alla centrale rischi, che è quella che segnala gli affidamenti bancari, a fine 2010, quindi un anno e mezzo fa, risultavano affidamenti bancari a Salvatore Ligresti, quindi direttamente e indirettamente, per 2 miliardi di euro. Tieni conto che il credito alle imprese in Italia vale 900 miliardi, è come se tu affidi a una persona fisica lo 0,3% tutto il credito che dai alle imprese italiane. È una concentrazione paurosa di credito bancario e il problema è che avevi una situazione di deterioramento pesantissima, perché Fonsai aveva un patrimonio netto di 5,2 miliardi nel 2007, quel patrimonio è diventato di 1,5 miliardi nel 2011. Cioè, più si assottigliava il capitale della Fonsai, più i debiti bancari aumentavano. Cioè più, attenzione a questo passaggio, si assottigliava il capitale della Fondiera SAI, più aumentavano i prestiti. I debiti con le banche. Lì le i banche... prestiti che le banche concedevano. Esattamente. Fermati qui, perché adesso noi, io ringrazio Fabio Pavese, dobbiamo parlare dell'iniziativa Disperati Mai, che vede tra le centinaia di mail che ci arrivano ogni giorno moltissimi citare tra i motivi della loro disperazione, fallimento e quant'altro il rapporto con le banche. Allora, alle banche italiane che hanno prestato 1,2 miliardi di euro a un gruppo che obiettivamente non reggeva, va il nostro applauso di oggi. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe. Sono un imprenditore e costruttore fallito a 66 anni dopo 47 anni di lavoro e 42 con l'impresa di costruzioni. Sono uno di quelli che ha fatto di tutto per salvare prima che la propria azienda, i suoi dipendenti, i fornitori, quasi tutti amici e comunque conosciuti da 40 anni. Uno di quelli che hanno perso tutto. Mi è rimasta solo la vergogna. Quando entro nelle banche, dove fino a 3 anni fa mi stendevano il tappeto rosso, ora mi evitano quasi come se fossi un lebbroso. Quelle stesse banche che mi hanno tolto improvvisamente tutti i fidi senza altra ragione, per la quale l'edilizia era diventata una categoria a rischio. Sono un eroe. Mi è rimasta la compassione della mia famiglia a cui non riesco a garantire i soldi per la spesa. Mi sono rimasti due amici di quelle decine che avevo prima. Mi è rimasta la voglia di lavorare e lo sto facendo, nonostante la grande stanchezza e l'enorme mestizia provocatemi dalle procedure di legge. Un calvario. Almeno il Cristo se l'è cavato in un giorno. Per me la salita al mio Golgota tra umiliazioni e notti insonni è durata 3 anni e mezzo e non è ancora finita. Conclude questo ascoltatore: non mi diverto a scrivere, non ne ho né il tempo né la voglia, ma confido che anche un granello di sabbia possa contribuire a costruire il castello. E scrivo per tutti quei bravi ragazzi in cerca di lavoro, per i loro genitori, per le mie figlie, per i miei nipotini, per tutti i disperati. Altro ascoltatore: io non sono disperato, non ho ancora nemmeno pensato al suicidio, ho pagato il 10 aprile la rata del mutuo scadente il 29 febbraio, i problemi sorgeranno con la prossima rata mutuo di fine giugno, l'IMU che con cascina, magazzini e stalle prevedo di alcune migliaia di euro, i contributi INPS di luglio, le nuove forniture energetiche eccetera. Non ho mai pensato, dicevo, di attentare la mia vita, ma qualche volta mi è balenato l'idea di esercitare una legittima difesa fisica durante i frequenti controlli dei vari organi che spessissimo si risolvono con un verbale e una multa o sanzione. Ho intenzione, ci stiamo pensando in famiglia, di rivolgermi al prefetto della mia provincia, Alessandria, e chiedere la conduzione e amministrazione della mia azienda agricola ed agrituristica con la formula della amministrazione con controllo preventivo. Se non accetterà, mi dichiarerò evasore fiscale a tutti gli effetti e resistente con tutti i mezzi quando verranno a pignorarmi la casa e la stalla. Aldo Bonomi, buonasera. Buonasera Barisoni. Lei dirige l'Istituto di Ricerca Aster, ha scritto anche un libro sul dramma della depressione, ma anche studia da vicino quello che sta capitando. Dopo il traffico vorrei avere una prima risposta da lei, non è una consulenza, l'ho spiegato mille volte, questa iniziativa Disperati Mai, @radio24.it, che abbiamo lanciato con la radio, Oscar Giannino e il sottoscritto nei programmi, vuole essere soprattutto dà la possibilità di esprimere una voce, di far sentire la voce. Altro purtroppo non possiamo fare, non siamo né una banca né uno psicologo nel Ministero dello Sviluppo Economico. Comunque, traffico. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Bonomi, mi faccia leggere ancora due lettere che usiamo a livello emblematico. La maggior parte accusano le banche, la burocrazia, il ritardo nei pagamenti, ma non solo, Cioè, qui stiamo ricevendo lettere di gente che, a fronte di crediti certi e esigibili liquidati fino a 720 giorni data fattura, al 15 di ogni mese è costretta a pagare tasse, IVA, contributi senza poter compensare, come dovrebbe essere prassi comune in un paese civile, debiti e crediti. Ad ogni ritardo di qualche giorno corrispondono ulteriori addebiti, interessi, blocco dei pagamenti per irregolarità contributive, una spirale il cui punto d'arrivo è per forza il default, il fallimento. E poi una vicenda tra le tantissime che riceviamo, insomma, un libero professionista nel 2010 parla con il comune di Monza per aprire un negozio di vendita e noleggio di biciclette elettriche, e vabbè, nel 2010 che fa un mutuo alla banca ipotecando parte della casa e apre il negozio. A giugno il comune pone il problema per il noleggio e, nonostante la documentazione, blocca tutto. Tra il 2010 e il 2011 lui tiene duro, interpella le varie compagini politiche per avere spiegazioni. Nel frattempo entrate zero e uscite tante. Nel 2011, stanco, stufo, deluso, decide di chiudere e interpellare uno studio legale. A novembre, dopo la lettera scritta dal suo legale al comune di Monza, riceve una risposta del comune che si sono accorti che non ci sono problemi, di andare presso i loro uffici e presentare la documentazione e iniziare tranquillamente l'attività di noleggio. Peccato che lui l'avesse chiusa e non avesse più una lira. Non avendo più soldi, scrive infatti, per ricominciare debiti da pagare, come potrei farlo? Allora, concludo dicendo: io, Stefano, 47 anni, mia moglie Alessandra, 44, le mie figlie Francesca, 13, e Valentina, 8 anni, ringraziamo il comune di Monza. E poi un altro ascoltatore: lavoro con clienti che pagano a 90 giorni cifre ridicole come 700 euro, ma la cosa veramente incredibile è che passati i 90 giorni non è detto che paghino. Dopo i pagamenti lunghi in Italia c'è la piaga degli insoluti. Devo avere e riscuotere ancora 7.000 euro da un cliente che produce gioielli e sono passati 4 anni, 2 avvocati, un pignoramento perfettamente inutile e il pagamento degli avvocati stessi. Aggiungo a questo fatto che ho già pagato IVA e tasse su questa vecchia fattura, come anche su altre che devo ancora riscuotere. E il sistema? Allora posso non pagare l'affitto dello studio in cui lavoro? Davvero non si può mettere mano a questa cosa? Già il lavoro è scarso, devo anche subire l'onta di non essere pagato. Bonomi, che sta succedendo? Prima di tutto, permettimi, Barisoni, un plauso all'iniziativa tua e di Giannino, a cui mi associo. Grazie, perché... della radio intera, comunque, grazie. Sì, mi associo perché non saremo in grado di dare risposte, però perlomeno una cosa essenziale in questo momento è quello di far sentire migliaia di soggetti dentro la crisi e dentro la transizione meno soli. Questo è il primo dato, estremamente importante, perché sai quello che sta succedendo nei casi più estremi, quando il conflitto invece di esercitarlo fuori, contro qualcuno, in difesa della propria impresa, della propria identità di professionista, del proprio lavoro, quando il conflitto lo si esercita dentro di sé, verso di sé, con quello che io chiamo la mala ombra, con il dramma del gesto estremo del suicidio, bisogna essere in grado di dire a tutti quanti: teniamoci per mano, che sembra banale, ma incominciamo a ragionare che c'è sempre una seconda chance che possiamo trovare. Certo, ovviamente cosa succede? Da tempo sostengo nei miei microcosmi, quando scrivo dei racconti territoriali, che la crisi scava in profondità nell'antropologia, se qualcuno questa parola sembra troppo pesante, scava nel nostro modo di essere, e ovviamente scava nel nostro modo di essere soprattutto in quella composizione sociale, in quei tanti soggetti per cui l'impresa è un progetto di vita. Quando si rompe l'impresa, a qualcuno potrà sembrare strano, ma per molti si rompe la vita, perché c'è una simbiosi tra impresa e vita. E la spiego, ma si spiega certamente. Dietro quelle lettere, dietro quei sussurri, dietro quei lamenti, dietro quelle urla, cosa ci sta? Ci stanno racconti di vita di gente che magari ha iniziato nel sottoscala, poi è cresciuto, è riuscito a prendere il primo capannone, è riuscito a prendere pochi operai. Con quei pochi operai, nella retorica dell'impresa come una famiglia o dell'impresa come una comunità operosa, sono cresciuti. E ovviamente crescendo l'imprenditore ha avuto la legittimazione, il riconoscimento della sua comunità, non del sistema paese, che molto spesso se n'è fregato di questi capitalisti molecolari, non li ha nemmeno raccontati né riconosciuti, sono buoni molto spesso per le tasse, per essere chiari, o per le banche, apriremo poi dopo questo discorso. Sì. Non li ha riconosciuti, ma il paese, la loro comunità locale li ha riconosciuti, sono riusciti ad essere qualcuno. Poi a un certo punto sono riusciti ad essere qualcuno, sono riusciti anche a costruirsi la loro casetta con la famiglia. Quindi a un tu certo dici, punto, Aldo Bonomi, entra dentro, sì, dimmi. Il primo aspetto, quindi, perché purtroppo devo leggere altre due lettere, anzi, purtroppo sì, devo leggere e ho poco tempo. Tu dici, il primo aspetto è che qui il progetto di vita è coinciso con l'impresa, e quindi bisogna dire innanzitutto che, attenzione, se fallisce un'impresa è una cosa dolorosissima, la vita non è il progetto, la vita è altro e si può ricominciare. Mi dai altri due motivi di spiegazione antropologica, sociologica di quello che sta capitando? Beh, l'altra cosa che sta capitando è che ovviamente bisogna associare momenti di depressione con la recessione. Sfido chiunque di noi, sto parlando di noi, che lavoriamo comunicando, che ne parliamo, che facciamo ricerca, che facciamo comunicazione, se ogni tanto attraversando questa maledetta crisi non ci sentiamo depressi. Immaginati te chi sta invece sul pezzo, in prima linea rispetto a questo. Beh, ovviamente quindi la depressione dentro la recessione prende rispetto a questo. Ma è vero quello che psichiatri come Eugenio Borgna chiamano le depressioni motivate. un fallimento è una depressione motivata, come con la stessa drammaticità che a volte viviamo nei nostri sentimenti quando ci vuole un amico caro, una persona cara, ci sentiamo sempre più soli rispetto a questo, ma la depressione ci prende, ho sentito in alcune lettere che tu leggevi, mi vergogno, quando ci prende la vergogna, i sensi di sì, colpa, molti dicono che scrivono con vergogna, certo. Scrivono con vergogna, perché ovviamente gli è venuta meno la loro identità, ecco. Ecco, un terzo aspetto, Bonomi, sì, potrebbe essere che, come disse un famoso antropologo Durkheim, sociologo, quando cambia il riferimento culturale, cioè la globalizzazione, la Cina, la fine di un futuro di attese progressive, si realizza quello stato di depressione, di suicidi che lui chiamava anomici, cioè la mancanza di norme, di riferimento? No, l'anomia, per dire in maniera chiara, è quella cosa che ci prende quando non siamo in grado di trasformare in valori socialmente condivisi il cambiamento, quello che ci sta succedendo. Un altro antropologo, Ernesto De Martino, usava un altro termine, l'apocalisse culturale. L'apocalisse culturale significa semplicemente che non ci riconosciamo più in ciò che ci era abituale. Cioè uno faceva l'impresa, la sua abitudine era di lavorare, pagare le tasse, fare le sue cose, avere il credito in banca e andare avanti. Gli è saltato tutto. Ti salta un mondo di riferimento, non sai più nemmeno a chi dirlo. Ecco. È importantissimo che abbiano, virgolette, certamente uno sfogatoio che può essere la radio, ma poi questo sfogatoio deve servire alle forze sociali, a chi fa rappresentanza, alla politica, a occuparsi di queste cose. Perché di cosa ci dobbiamo occupare oggi? Dentro le tragedie che stanno avvenendo, Non mi far parlare, che non voglio usare parolacce nel finale del programma, però ti leggo una cosa, poi ne abbiamo altre centinaia, cercheremo di, io e Oscar Giannino, di leggere nel corso di questo programma. Grazie Aldo Bonomi, perché ci ha detto due cose importantissime. La prima, che non siete soli, è un fenomeno collettivo, uno può pensare di essere solo ma non è così. E la seconda, che il progetto di vita, un progetto di impresa, non può coincidere col progetto di vita, non può coincidere con la vita stessa, si rifà un altro progetto. Ti leggo questa lettera prima di salutare te e tutti gli ascoltatori. L'altro giorno al telefono uno dei miei più stretti amici ha pianto, un crollo nervoso, schiacciato dai debiti, incastrato nel meccanismo del revolving card, ex amministrativo di informatiche, disoccupato da tempo, ha mentito e mente alla sua attuale compagna, le dice che è occupato, in aspettativa, in sostituzione, soldi li ha chiesti a tutti, parenti, amici, familiari, il terreno delle risorse prestazionali ormai è esaurito, anche la sua tenuta psichica, non sapevo cosa dire, ma alla fine una cosa così ci è venuta in mente, evidentemente quasi spontanea, dicevo la cosa, il vero valore, forse, anzi no, sicuramente è l'amore che queste donne, nonostante tutto, ci danno. Grazie Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, anche questa settimana da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.